Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici da parte di Gesuina e di Antonio. Naturalmente avrete capito che la Gesi è latitante per motivi validi questa sera, allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Questa sera abbiamo con noi due personaggi importanti che ci parleranno dell'emigrazione italiana di un tempo, e sono la dottoressa Giorgia Miazzo e l'architetto Gianluca Parise. E andiamo ad ascoltare il primo brano musicale della serata, che lasciamo all'ospite introdurre. Buonasera a tutti, grazie per questo grande e meraviglioso invito, e andiamo ad ascoltare adesso una canzone molto, molto toccante che si chiama Ricordarsi dei nostri bisnonni, una canzone degli italo-veneto brasiliani che parla delle radici e d'identità. Presto pedo que animai, gato voto puro mato, sem saquerte dormiva em terra, e galuta tanto, tanto, quase como é sempre la guerra. Bisogna recordar-se de nós de bisoni, que graça lori. Força entre o nosso Brasil. Bisogna recordar-se de nós de bisnoni, que graça lori, poi nós semos qua. Lá de Meni la gente del mondo fosse sta come i nostri bisnoni, adesso il mondo il sarà ben altro, senza guerra e meno povertà. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnoni, che grazie a loro poi noi siamo qua. Ed eccoci di nuovo in studio. Naturalmente, prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, vi leggerò un breve profilo biografico e culturale della nostra Giorgia Miazzo, che è stata con noi già altre due volte. Giorgia è nata a Padova, è docente, interprete, traduttrice, scrittrice, giornalista e group leader. Interessata alla cultura dell'America Latina, ha vissuto nella Repubblica Dominicana e in Brasile. Ha interagito con varie realtà dei paesi in via di sviluppo nelle Americhe, quali Messico, Cuba, Honduras, Venezuela, Perù, Cile, Paraguay, Uruguay e Argentina, e in Africa come l'Angola e il Senegal. Esegue corsi aziendali e privati e la sua passione e sensibilità, unite alla padronanza di alcune lingue, l'hanno portata a confrontarsi con le comunità italiane all'estero e a plasmare l'enorme bagaglio culturale, umano e professionale raccolto nelle sue ricerche antropologiche e linguistiche. Ha realizzato un progetto inerente alla ricostruzione della memoria storica e linguistico-culturale dell'emigrazione veneta nelle Americhe, in cui espone il fenomeno del Talian o Veneto, lingua oriunda parlata in America dagli emigranti. È la coordinatrice della sezione Brasile della Veneti nel Mondo di Camisano Vicentino, Italia. Oltre ad articoli su giornali e riviste specializzate in Italia e all'estero, ha scritto i seguenti libri: Cantando in Italian, Imparare il Talian con la musica e Scoprendo Italian, Viaggio di sola andata per l'America, prima e seconda edizione, Descovrendo Italian, I miei occhi hanno visto, storie di sguardi ed emozioni di viaggiatori e migranti e le grandi migrazioni dal nord Italia al Brasile, 2016. Autrice di un progetto di ricerca e ricostruzione della memoria storica del patrimonio linguistico e culturale dell'emigrazione italiana in Brasile, studio del fenomeno migratorio dal punto di vista storico, sociale e geografico, in cui si espone il fenomeno del Talian, lingua oriunda veneta in Brasile, fondamentale per proporre percorsi formativi e didattici atti a rafforzare il legame con la terra natia e con il lascito degli avi, nonché a salvaguardare una lingua identitaria di valore assoluto. Ed è con noi Giorgia. Buonasera, buonasera a tutti. Giorgia, ben trovata. Grazie, grazie dell'invito, un invito reiterato, insomma mi fa sempre piacere essere con te perché so che insomma ci tieni, no, anche a molto. Raccontare questa pagina di storia dell'emigrazione che a volte viene dimenticata, a volte non c'è lo spazio, no, con le veloci e grandi vicissitudini insomma che sempre accompagnano il nostro paese e il mondo oggigiorno. Ecco, quindi sono qui a presentarvi questo lavoro, un lavoro fatto insomma con tanta passione, tanto amore, che porto avanti ormai da 10 anni, e è un lavoro che cerco di far conoscere, divulgare alla gente, perché sappia insomma che anche noi siamo stati emigranti e anche noi siamo stati migranti eroici, no? Siamo partiti nel lontano 1875, è stata un'immigrazione molto difficile, molto sofferta, dai viaggi in nave, no? Da questa gente che se n'è andata strappata dalla propria terra per sempre, con questi passaporti di sola andata, questi viaggi in queste navi mercantili dove la gente partiva per sempre, no? A catar la cucagna, l'America, una terra dove si sperava ci fossero i salami appesi agli alberi, invece erano solo le banane, e in realtà questa gente è stata messa in mezzo a una foresta, è stata messa lì, gli è stato acceso un fuoco e gli hanno detto: adesso costruite, no, questo sud del Brasile. In questo caso parliamo del Brasile perché l'immigrazione veneta in particolare è partita alla volta proprio di questa nazione lontana per prima, e quindi si è trovata da sola con i tedeschi, in realtà già arrivati, no? 50 anni prima, con cui poco aveva a spartire sia a livello linguistico, culturale, sì, anche territoriale. E quindi si è trovata a farcela, no? Quindi dopo tanti anni insomma davvero di lavoro duro, di anche tante perdite, anche proprio di persone che hanno lasciato dalle navi a queste insomma nuove vite in una terra insomma nuova che era impossibile, anche, no? Col freddo, con animali feroci, malattie tropicali, colline, montagne, eccetera, si è trovata a costruire una nuova Italia. L'Italia che oggigiorno noi abbiamo la fortuna di andare a conoscere, di andare a tastare, di andare ad abbracciare attraverso gli occhi, le braccia di questa gente che ancora ha lasciato un pezzo di cuore qui da noi, no? Ecco, quindi questo progetto cerca di far pulsare ancora questo cuore, perché non sono partite solo braccia, sono partiti appunto anime, spiriti e gente che ha voglia ancora di sentire un ponte, di sentire un legame, no, con noi, che siamo distanti, che siamo ormai proiettati in un altro mondo e che non ci ricordiamo che in Brasile abbiamo 12 milioni di discendenti di origine veneta, 30 milioni di discendenti italiani, appunto il 40% di origine veneta, quindi insomma direi che tre veneti lì che ci pensano, che ancora mangiano la polenta. Una quota che non marginale. È una quota, sì. E abbiamo quasi 2 milioni di persone che ancora in maniera più o meno buona ricordano e parlano e usano in maniera attiva la lingua veneta, che in Brasile la chiamiamo Talian, è una variante di vari veneti, se vogliamo dirla un po' così. E che però, insomma, dietro a questa lingua c'è voglia di radici, voglia di identità e voglia proprio di ricordarsi, insomma, che loro sono sì brasiliani, ormai siamo alla stessa generazione, però soprattutto tutto e tanto si sentono appunto di avere nel loro vene, insomma, nel loro sangue DNA, diciamo, sì, ecco, di origine italiano, veneto, comunque con le migrazioni anche del nord Italia. Io da un po' che non venivo, adesso è uscito un nuovo libro, Le grandi migrazioni, dove qui ci concentriamo anche sulle migrazioni del Trentino, del Friuli, Venezia Giulia e della Lombardia, perché anche queste sono state terre forse meno conosciute. Di grandi migrazioni meno conosciute, però insomma ci sono state, abbiamo conosciuto per esempio quest'estate in Brasile una comunità di bergamaschi molto bella, dove ancora si preserva la prima casa costruita in pietra dei bergamaschi, con le chiese, tanto di proprio comunità che porta avanti non solo la culinaria, le canzoni, quello che è in qualche modo la voglia, no, di quello che è trapiantare una società dall'altra parte del mondo, ma anche con delle movenze, degli accenti, qualcosa che mi ricorda proprio il nostro Bergamo, no? Quindi comunque al lato di questi veneti ci sono anche altre comunità che ricordano e che portano avanti la nostra identità, la portano avanti con grande orgoglio. E il problema è che non si sta perdendo, perché la globalizzazione è imperante, no? Questo. Anche lì. Ma poi anche questi inganni del passato, diciamo, nonostante tutti gli inganni del passato, della prima epoca e compagnia, c'è questo desiderio di conoscere anche da parte di seconde e terze generazioni, che è qualcosa che non sono mai riuscito a capire fino in fondo. E oltre alla mancanza di conoscenza c'è stata anche tanta vergogna, no? Perché sì, anche lì i venti sono stati conosciuti come gente lavoratrice, dicevano stupidi, bauchi, ignoranti, dovevano lavorare, chi parlava non andava bene perché era gente senza cultura, quindi la vergogna di essere veneti in qualche modo, perché si andava là in qualche modo come braccianti al lato degli schiavi all'inizio, e poi con la grande dittatura che di nuovo ha vietato un'identità, la dittatura di Getúlio Vargas in Brasile, Vargas, che ha vietato appunto le varie parlate di migrazione, tra cui questo veneto, questo italiano che è stato deriso, è stato proibito e è stato visto come simbolo di vergogna. Nonostante ciò abbiamo ancora un numero importante di persone che cantano alla nostra terra. Quindi chiaramente diciamo che nonostante tutti i vincoli e compagnia, l'identità è quella che è prorompente, che non si può diciamo tenere nascosta e non si può tenere sotto controllo. Come dicevi tu, il DNA, no? È qualcosa che sentiamo dentro e che va oltre le frontiere dello spazio e del tempo. Penso che l'identità sia importante in ogni società, non c'è come la nostra, che ci stiamo forse a volte un po' perdendo, no? Ancora, perché ci manca, sì. È importante, sicuramente è un faro, no? Che ci guida. Esatto, in certi casi come nel nostro, diciamo, è più forte di molte altre, certo, diciamo, forze centrifughe o cose di questo, certo, tipo. È un passato che ci porta nel futuro, no? Questo è fondamentale. E allora sì, direi che a questo punto noi andiamo ad ascoltare il secondo brano musicale, che verrà appaltato in questo caso alla nostra ospite per tutta la trasmissione. Sì, questo secondo brano è di un carissimo signore amico brasiliano, italo-veneto brasiliano, che si chiama Giovena del Castello, una persona che canta per l'amore della nostra patria, del nostro Veneto. Si chiama Sul Fogò e parla della bellezza di stare attorno a un focolare domestico con la famiglia e delle faccende quotidiane della vita in italiana. Chiese un fuoco, una legna, della casa di un tagliano, per brusolar la polenta, per scaldarsi sulle mani. Chiese un fuoco, una legna, della casa di un tagliano, per brusolar la polenta, per scaldarsi sulle mani. Cara gente, gente amico, del rio del fogon, senti te su in carica, con te nessun qualche storia che mi piace già colar. Porta qua il bicer de vin, son vissà de piccinin, tirem fuori i mandolini, perché c'è bel che passai, venimo su di patate, di formetto se cosina, assi il gatto dormi lento, che stasera rien la brina. Chiese un fuoco, una legna, della casa di un tagliano, per brusolar la polenta e scaldarsi sulle mani. passeremo sulle finestre, che non venga il vento freddo, da me sal una tracciantina che vuol forza pietre sfar questi gnocchi di farina. Su una legna di eucalipto che scalda la casa intera, e il compare sarà vera che ho il proprio scampare via. Se ci appariamo subito toccherà tornare in Dio, una donna accompagna questa può cercare che il catamia. Che se un fuoco una legna della casa di un taglian per brusolare la polenta e scaldarsi sulle mani. E un tornito a te, idrio che fa il tema di casa, prima che brusi il suaio, quando casca una brasa, catton su con straso muio. Attenti con la salera, che chiese acqua de buio, non so se fa una fortaia o se ne rosti su uovo. Queste notte così fredde, niente meglio che un buon fuoco. Poi di giorno fuori al vento, se scaldemo del lavoro. Che se un fuoco una legna della casa di un taglian per brusolar la polenta riscaldarsi sulle mani. Che se un fuoco... E siamo di nuovo in studio per questo racconto affascinante di altre epoche, di altri lidi. Prego Giorgia. Okay, grazie ancora. E volevo, parlando appunto, stiamo parlando di questo popolo, no? Buono che parte per all'avventura o alla sventura per questa America. E ho scoperto questo racconto, questo rapporto consolare dell'epoca che raccontava proprio il perché volevano i veneti a lavorare in terra brasiliana. E ve lo leggo perché lo trovo molto interessante. Il popolo veneto lo si considera instancabile, tranquillo, dolce e remissivo. Morigerato, poco esigente, difficilmente sindacalizzabile, restio all'organizzazione a fini di resistenza e di rivolta. Assai raramente si lascia spingere sulla via dell'insubordinazione, dello sciopero, del malcontento e di tutte le loro conseguenze. E se proprio non è dotato di una grande svegliezza d'ingegno o se manca completamente di istruzione, è però laboriosissimo, sobrio, onesto e tranquillo. È veramente ammirevole la stoica filosofia con cui esso supporta le privazioni, i disagi, le fatiche e la miseria. Non si lagna mai. Ed è il colmo della felicità quando ha potuto assicurarsi, anche con una meschinissima paga, che non morirà di fame. Paziente e rispettoso, solo alle volte si ribella contro i soprusi e le prepotenze, ma bastano poche parole per ricondurlo a miti sentimenti di concordia. Beh, insomma, diciamo che è un ritratto addirittura geografico, non lo so. Ed effettivamente io penso che ci si possa riconoscere in questo. Io direi di sì. Decisamente. Che a volte potrebbe essere anche un handicap, se vogliamo, di fronte a un mondo di squali come nel quale ci troviamo. Sicuramente oh, no. Lo è. Siamo questo in realtà, no? Quello che sempre l'identità, l'identità è il nostro DNA, il nostro è quello, siamo buona gente, no? In Brasile si dice buona gente quando che dorme, dopo scherzando. Però. C'era uno zio mio contadino che diceva buona gente ma brutta rassa quando non poteva fare qualche altro. Sì. Ecco, e poi leggendo sempre un'altra testimonianza, restando su questo, insomma, le testimonianze hanno questo fascino di raccontare, riportarci nel passato questo presente che ancora ci accomuna e ci fa vivere con forza l'emozione dell'emigrazione. Questa volta vi leggo una lettera, è una lettera di un emigrante, è una lettera che mi accompagna sempre, no, nei miei incontri, perché penso che sia veramente toccante la forza di questo giovane e anche la disperazione che parte nel 1880 e scrive ai genitori com'è questo Brasile. E dice appunto: carissimi genitori, vengo a notificarvi lo stato di mia salute. Sono stato 8 giorni ammalato con tumore alla mano. Per ora sto bene, come spero il simile di voi altri, tutti di famiglia. Par conto dell'America, quasi un schifo, perché i lavori vanno male. I lavori di ferrata sono fermi. Io sono partito da Santa Rita perché ero sotto un padrone che non era capace di prendere il viaggio. Sono partito da quel brutto paese e sono andato in altro di peggio. Ora sono sotto un altro padrone. Mi tocca travagliare con zerle sulle spalle, su per i monti come un musso. Alla mattina si comincia con le stelle e alla sera a casa con le stelle. E par conto del magnare, alla mattina fasoli, a mezzogiorno fasoli, alla sera fasoli. Il paese distante una giornata di cammino, e par conto dei viveri se tutti cari, solo l'acqua vita a buon prezzo, un franco e 25 al litro. Del resto, se tutto caro. Par conto delle bestiolette, ce n'è di ogni qualità, i bisinte e i piese come le formiche in Italia. Infatti, se ci sono qualcuno che volesse venire in America, disighe pure che staga in Italia. Sì. America, America. Questo è un racconto interessante. E quindi qua si parla proprio di emigrazione. Questo lavoro è Cantando in Italiano, questo progetto che recupera la storia, quindi questo tragitto, no, degli emigranti nelle sue tre fasi più importanti, dal 1875 al 1960, calcolando che la prima emigrazione è stata la più dura, la più difficile, erano viaggi di sola andata oltretutto, sì, per questa America, la più massiccia, la più disperata, anche perché non c'erano poi gli strumenti, no, per potersi in qualche modo salvaguardare come sono state le migrazioni successive. Però non vuole solo avere uno sguardo nel passato, ma anche lavorare con l'immigrazione di oggi, perché il rischio è proprio quello di perdere tutto in pochi anni. Quindi questo progetto ci porta poi in Brasile una volta all'anno a lavorare con le comunità di giovani, di bambini, di adulti, di anziani, perché tutti possono avere la possibilità di recuperare con questa nostra goccia nel mare, in questo oceano, perché non è altro che una goccia, ma penso che l'oceano sia fatto, no, di queste gocce. E ci porta a lavorare in queste comunità dove facciamo dei corsi o delle conferenze di storia, di geografia, di architettura, di lingua veneta, italiana, con questa gente. Quest'anno abbiamo incontrato più di 2000 bambini nelle scuole e all'inizio ci guardavano così, con questo nostro accento, alla fine della giornata con noi cantavano le canzoni a squarciagola. Ecco, io penso che il nostro seme l'abbiamo piantato. Sappiamo che spesso andiamo via e qualcuno prende i nostri libri per andare avanti a cantare, a fare lezione, che in qualche modo prendono spunto del nostro metodo didattico, che lavora con le musiche, con il gioco, quindi un metodo ludico, per appunto non dimenticarci della lingua. E quindi penso che questa sia proprio l'importanza, piantare questo seme e vedere che qualcosa è rimasto di questo nostro lavoro, un lavoro volontario che facciamo proprio per non dimenticare la memoria storica. La memoria storica è quella che ci porta poi ad avere più consapevolezza, no? Ma non solo per questi migranti, per questa gente del Brasile, ma anche per noi. Questo lavoro lo facciamo anche qui in Italia con serate, eventi culturali a cui anche tu, no, hai partecipato, certo, con la tua bella voce una sera, ricordo ancora. E quindi anche per far conoscere a noi, no, un po' di più del fenomeno migratorio che oggigiorno ci coinvolge nel lato contrario, no? Quindi con questi grandi arrivi che abbiamo, esatto. Però anche di questa fetta di storia che non, nei libri di storia è rilegata in una mezza facciata e è soffocata, perché forse un po' anche, no, per questo forse anche mancanza di dignità, anche di vergogna, no, rispetto a questa gente che, esatto, è stata proprio mollata e dimenticata per sempre. Ma la cui partenza è stata anche, mi pare, favorita con l'inganno all'epoca, ma dai governi dell'epoca. I governi, sì, sì, il governo brasiliano che aveva tutti gli interessi di, esatto, accogliere questa gente che era, abbiamo visto, era molto laboriosa, che andava a soppiantare quello che era il lavoro degli schiavi, quindi un lavoro più indipendente, più professionale, sicuramente andare a popolare una terra che era ormai disabitata e era possibile meta di Argentina, di Uruguay, insomma di altre mire espansionistiche. E il governo italiano sicuramente ha anche l'interesse di lasciare andare tanta gente, perché per tutti non c'era spazio. Certo. E penso che se noi siamo oggigiorno, possiamo considerarci fortunati, penso, no, rispetto a tante situazioni che abbiamo nel mondo, è grazie anche alle rimesse che sono state mandate per decine di anni dai nostri migranti. Sì, che avrebbero potuto essere, credo io, ordini di grandezza superiori se solo, diciamo, i nostri maggiorenti dell'epoca, di ogni epoca, avessero avuto così l'accortezza, anche finta se vogliamo, di considerare queste persone, questi nostri fratelli, o sbaglio? Considerare le persone, no? Considerare questo le persone, sarebbe stato grande passo. Non numeri, non entità. Sì, già nei primi giornali dell'epoca, quando arrivavano queste navi dall'Italia, dicevano: questa gente viene a popolare il cielo, viene a popolare la terra, perché arrivavano deceduti, arrivavano in condizioni proprio fatali, insomma, e quindi già, no, da questi viaggi in nave, che erano viaggi della speranza. speranza. Perché poi c'è Sirio, naturalmente. Quando arrivavano c'è Sirio, certo, la nave dei cadaveri e tante altre situazioni. Pensavano che le navi, alcune arrivavano proprio con le epidemie a bordo di malaria, eccetera, e venivano rimandati a morire in Italia, quindi anche proprio neanche i soccorsi. E questa è un'altra frangente che vorrei leggervi, di una signora che già scrive a Marsiglia nel 1877, quindi già si rende conto di com'era la situazione. Vi leggo un paio di righe e dice: in questi giorni i falegnami hanno lavorato a fare i posti per buttarsi a dormire uno sopra l'altro, che bisogna stare inginocchiati, ancora si petta con la testa sopra, peggio delle bestie, senza respiro. Del bastimento siamo spessi come in un buco di ave. Uno strepito, chi piange, chi si lamenta, spose coi figli in braccio che vogliono gettarsi nell'acqua e negarsi, e dicono che se si parte si muore tutti prima di arrivare in America. Quindi già si erano resi conto. C'era già una consapevolezza, prima ancora di arrivare in questo. E questi oceani sono rimaste le tombe di migliaia e migliaia di migranti. Quindi poi anche il dolore di famiglie che partivano in 10 e che lasciavano già figli o il marito in questi oceani, proprio perché non si riuscivano. Esatto. Erano situazioni proprio disumane. E dopo in questa foresta, a disboscarla, no, a colpi di macete, e a colonizzare nuovi territori. E questo contatto anche aggressivo con la natura, perché pensiamo, noi andiamo in Brasile della nostra estate, che lì è inverno, quindi luglio-agosto, e abbiamo il piumino, i maglioni di lana, perché non c'è riscaldamento, poco, non sono preparati, non fa freddo, abituati. È umido. Sì, e sì, loro in infradito. Quindi sono abituati, si sono stemprati, se ci pensiamo, no? Perché l'abitudine anche di rimanere in una terra così fredda. Certo, certo. E in terra è anche peggiore, perché abbiamo detto 50 anni prima sono arrivati i tedeschi, che si sono presi, no, la parte migliore nella costa, nel mare, e loro sono arrivati appunto nelle montagne, nelle colline, zone quindi interne. Anche il lavoro e la coltivazione. Sì, che adesso era, mi pare, un'impresa. Che tipo Rio Grande do Sul e compagnia, sì, siano diventati dei giardini in confronto di un'epoca. Sì, adesso abbiamo la Valle dos Vinhedos, per esempio, che è una meraviglia, con le coltivazioni delle viti e di tante altre culture che sono meravigliose. Abbiamo conosciuto anche quest'estate, con un lavoro che già conoscevo prima, ma ho lavorato proprio in un'intervista, facendo delle interviste nella comunità anche del Paraná, vicino a Curitiba, che è la capitale. C'è una comunità molto bella che si chiama Colombo, e sono tutti partiti dal Val Brenta, quindi mantengono ancora questo dialetto, questo veneto del Val Brenta, molto intatto, molto mantenuto. Sì. E il problema è che sono anziane le persone che lo parlano, e quindi bisogna catturarlo prima adesso, che, no? Adesso sarebbe adesso, importante, esatto. Adesso e si stanno muovendo in maniera, si sa che dopo, quando si è perso qualcosa, ci si rende conto dell'importanza. Esattamente, sono come delle oasi culturali, diciamo, sì, che no? Possono delle cristallizzazioni, diciamo, certo, che il passato che attualmente si riesce, sì, a vedere. Sì. Effettivamente la realtà del Veneto in Brasile è definita proprio dai linguisti un'isola linguistica e culturale di cristallizzazione, dove si è mantenuto intatto. È come un viaggio nel tempo, no? Si va a 12.000 chilometri, ma si viaggia 100 anni fa. Esattamente. Anche proprio non solo la lingua, la cultura, le tradizioni, ma questo sguardo ancora incantato, sì, che hanno, questa semplicità che mi riporta alla mia infanzia, all'epoca dei miei nonni. E allora noi passiamo al terzo brano musicale. Sì, il terzo brano si chiama La Donna Grande, è una canzone più scherzosa, che racconta un po' di come deve essere la donna per il migrante. E allora parla della brasiliana, di tanti tipi di donne, e alla fine dice che la più bella è la piccinina, che sembra una colombina. La donna grande non la vuoi, no, la vien sul letto, la panna stanga, la donna grande non la vuoi, no. La donna tirolesa non la vuoi, no, la donna tirolesa non la vuoi, no. La vi sul letto, la panna modolesa, la donna tirolesa non la vuoi, no. La vi sul letto, la panna modolesa, la donna tirolesa non la vuoi, no. donna che tabacca non la vuoi no, la donna che tabacca non la vuoi no, la vi sul letto la panna gira l'acca, la donna che tabacca non la vuoi no, la vi sul letto la panna gira l'acca, la donna che tabacca non la vuoi no. La donna brasiliana non la vuoi no, la donna brasiliana non la vuoi no, la vi sul letto la panna matta, la donna brasiliana non la vuoi no, la vi sul letto la panna matta, la donna brasiliana non la vuoi no. La donna piccinina la vuoi sì sì, la donna piccinina la vuoi sì sì, la vi sul letto la panna colombina, la donna piccinina la vuoi sì sì, la vi sul letto la panna colombina, la donna piccinina la vuoi sì sì. Ed eccoci di nuovo in studio e lasciamo la parola alla nostra amica Giorgia. Oggi sono accompagnata anche da una persona che è stata speciale ed è speciale in questo progetto, quindi ho la fortuna di farvi conoscere anche l'architetto Gianluca Parise, docente. Buonasera anche. Gianluca. E appunto ci Buonasera. Racconterà anche lui un po' il suo sguardo, il punto di vista su questo progetto che segue dal punto di vista proprio pratico, no? In queste serate in cui anche lui partecipa, ma anche in Brasile ha avuto l'occasione di conoscere queste bellissime comunità italo-veneto-brasiliane. Gianluca. Ecco, buonasera e intanto ringraziamo per questo spazio, per la sensibilità di accogliere un progetto questo sul Talian, sulla lingua dell'immigrazione, che vuole essere un progetto legato a racconto vivo, chiaro, attento a due mondi paralleli che si sono separati 140 anni fa. E oggi, cioè, con le nuove tecnologie, con i nuovi viaggi, con questa vicinanza che non sono più i viaggi di un anno con le barche a vela o i 30 giorni, i famosi 30 giorni di America con le barche a vapore, adesso sono molto più veloci, sono più diretti e questi viaggi permettono di rilegarsi, no? Riavvicinarsi a queste due storie, no? La storia della nostra Italia che è cresciuta, si è sviluppata, è diventato un primo mondo, e questo Brasile che è un Brasile diverso, è un Brasile del sud che non è quello di Rio de Janeiro, non è quello di San Paolo, non è quello delle Olimpiadi che abbiamo visto quest'anno, ma è un Brasile che, quando sente la nostra lingua madre, è un Brasile che apre il cuore. Ecco, questo è il senso vivo di questo progetto che, no, tende a riguardarci negli occhi, a riconfrontarci, a riavvicinarci, e ha più aspetti che possiamo osservare, possiamo considerare. Da un lato, certo, la valorizzazione e la promozione di un patrimonio che, no, di questa lingua, che è stata riconosciuta anche dal governo federale brasiliano, è una lingua ufficiale, la lingua dei baucoti, dei coloni, ma è la lingua che in quella regione si è parlata per 50 anni, 70 anni senza essere scalfita in maniera importante dal portoghese. Un riconoscimento di dignità, chiamiamolo. Certo, così. Certo. E perché loro sono abituati a sentirsi dire che questa lingua è sbagliata in qualche maniera, no? In realtà, come si fa a dire che la lingua di una madre e la lingua della nonna sia una lingua sbagliata? E con essa parliamo di lingua, ma parliamo anche di cultura, gli usi, i costumi, il modo di costruire, il modo di cantare, le musiche e tutti quegli usi che hanno fatto un viaggio, no, oltreoceano, che sono partiti da qualche paesino del nord Italia, dell'Italia stessa, e sono arrivati in questo sud. E tutte hanno lo stesso valore, tutte hanno la stessa dignità, come qualsiasi parola che noi ascoltiamo, no? Anche quella un po' storpiata, che a noi da veneti diciamo, ma insomma non è proprio così, ma in realtà è genuina, diciamo, è nella sua genuinità, è la sua ricchezza, ed è giusto valorizzarla. E dall'altro, questo progetto progetto noi lo raccontiamo, lo presentiamo anche qui in Italia, proprio perché crediamo che sia un veicolo importante per fare capire da dove veniamo, no? Anche noi giovani crediamo che questo Veneto, che questo Nord Italia, questa Italia sia cresciuta così, la troviamo così già fatta, ma in realtà qualche anello l'abbiamo dimenticato, no? Qualche passaggio l'abbiamo dimenticato, perché siamo cresciuti e vissuti su un'Italia che adesso è in crisi, che adesso è in sfascello, ma voglio dire, prima probabilmente c'era ben altro, ecco. Per cui quindi questo lavoro racconta anche di questo, cioè di un grazie, di un Veneto, di un territorio che da sempre ha migrato, da sempre chi andava in Slovenia, chi andava in Austria, Germania, e chi andava in Europa, ma chi poi è partito e è andato anche oltreoceano. E per ultimo, io credo, un messaggio chiaro per chi è giovane, per chi, come racconto le statistiche, 100.000 residenti italiani che anche sono andati all'estero. Sì. E quindi qual è il bagaglio che noi possiamo portare con noi? Qual è la canzone? Qual è la parola? Quali sono i modismi, gli usi e i costumi che noi mettiamo in questa valigia? Una valigia più moderna, una valigia più veloce, con viaggi aerei molto più istantanei, la possibilità anche di tornare, ma stiamo partendo di nuovo, stiamo andando, no? Vado per l'America. Altre Americhe, altre Americhe, e con aspettative differenti, però è un paese nostro che si sta trasformando in maniera veloce. Ecco, allora rileggere anche alcuni passi del nostro passato è un modo per vedere anche il presente, ma soprattutto il futuro. Il futuro. E questo è proprio un tema importante, e poi chiudo, e nel senso che noi siamo abituati anche a sentire testi sul italiano, sulla cultura italo-veneto-brasiliana, ma su tutta la migrazione in genere, anche nelle Americhe Latine, in cui leggiamo passi di passato, di tragedie, di fatica, di disperazione, di percorsi anche vincenti, di persone che ce l'hanno fatta, però manca un futuro, ecco, no? Quindi questo progetto vuole guardare verso il futuro, il presente di una lingua, di una comunità che c'è, non sono morti, no? Il Brasile esiste, il Brasile del Sud esiste, per cui anche queste comunità, credo anche con la nostra piccola semente, no? vogliamo no? dare un messaggio, cioè c'è un presente, ci sarà un futuro di queste culture che si trasformeranno, ma anche con questa analisi, questi due mondi paralleli, noi vogliamo raccontare la ricchezza e l'importanza di preservare, conservare e valorizzare un patrimonio che è di tutti, italiani e non, brasiliani e non. Certo, un'iniziativa decisamente meritoria, devo dire. E passiamo di nuovo la parola a Giorgia. Ringraziamo Gianluca per questo puntuale intervento. Sì, Gianluca diceva anche percorsi vincenti, no? Certo, il Brasile di oggi è un Brasile anche di eccellenze professionali, di gente che ce l'ha fatta e che ha costruito un sud che in realtà è un primo mondo e che sta anche aiutando forse anche altri Brasili che sono più in difficoltà, e quindi ci siamo anche rivelati di nuovo, no? Questi lavoratori, no? che in queste navi sono poi rivelati appunto persone estremamente professionali che hanno costruito un tessuto professionale, culturale e sociale senza pari in Brasile. È sempre bello raccontare per esempio la storia di Ana Rech, vero, che è stata la prima donna per convenzione, insomma la prima donna con grandi difficoltà che è partita proprio per l'America, per il Brasile, con 7 figli, senza marito, e non volevano farla partire dal porto perché aveva anche 2 figli con grossi problemi di salute. Lei dice: se non mi fate partire, io e i miei figli ci buttiamo in mare. Ecco, oggigiorno calpestiamo una terra, un quartiere che si chiama Ana Rech, Caxias do Sul, che era la seconda città più importante del Rio Grande do Sul, che è l'ultimo stato proprio meridionale del Brasile, che appunto prende il suo nome con una statua e una chiesa dedicata a lei, simbolo di una persona che ha costruito una situazione imprenditoriale e ce l'ha fatta dall'altra parte del mondo nel 1876. Quindi proprio deve essere stata una cosa un'eroina, un'eroina. Sì. Con casi anche di situazioni più recenti, ho avuto anche il piacere di conoscere, è deceduta l'anno scorso, quindi l'avevo conosciuta nel 2011, e la grande grandissima attrice teatrale Maria della Costa, che ha interpretato tutte le epoche e tutti i ruoli del teatro, quindi proprio una persona di un grande livello professionale, di origine veneziana sia da parte del padre che della madre. E a San Paolo per esempio abbiamo un teatro che si chiama Maria della Costa, sempre dalla parte delle donne, no? Sì, sì, però sì. Se pensiamo anche al caffè, pensiamo al caffè brasiliano, al caffè colombiano, quanto buoni eccetera, ma il re del caffè è di origine veneta, quindi Geremia Lunardelli, nato a Mansue nella provincia appunto di Treviso, sì. E oggigiorno con una niente meno che 15 milioni di piante da caffè, quindi uno dei maggiori produttori a livello mondiale, quindi ci sono state anche persone che molto sono brave, esatto, no? Esatto. Quindi un plauso e un grazie ancora. E poi passiamo, se ce la facciamo, sì, direi anche, sì, un po' a questo tessuto linguistico. Io vorrei darvi una definizione di che cos'è questo italiano, no? Perché magari in Italia si vede questa parola italiana, ma è italiano, no? L'italiano è un veneto, quindi è questa mescolanza di vari dialetti che definirei proprio come queste isole linguistiche che abbiamo detto prima, un dialetto forse proprio più onesto del nostro, perché è rimasto intatto, se vogliamo, nella terminologia, nelle cadenze, nelle inflessioni, molte volte più trevigiane piuttosto che vicentine e bellunesi, perché sono state le grandi terre di migrazione del Veneto. E una signora un giorno me lo raccontava così, e io voglio raccontarvelo con le stesse parole. L'italiano è una vera lingua, una sesta di affusione dei differenti dialetti dei nostri primi migranti, insieme con parole nuove, necessarie per nominare de novità, de nuova strania patria brasiliana. I fondamenti di esistenza della lingua, i gadaveder con la sua letteratura, e fondamentalmente che la sia parlata e scritta. L'edo parada per i discendenti italiani che nel 2015 ghemolo da 140 anni del suo arrivo dal Brasile. Che gatto cavia iarpa catarsi la nuova patria, senza fame, con poco freddo, con manco malattie, senza guerra e composto per tutti. Sì, è un veneto comprensibile, è un italiano, sì, comprensibilissimo, sì, infatti, che conserva proprio quelle locuzioni, quelle cose che sono straordinarie, di genuinità di un tempo, di semplicità e compagnia. E la semplicità e i valori. E quelle, no? di pudore anche, mi sembrerebbe, sì, di poter, sì, capire, non so, una cosa di questo tipo. Sì, anche un'umiltà, no? Ecco. Quasi la paura anche di dire, ma come dicevano, si arriva in Brasile, la parola che si sente è il metalian le sbaglia. E il messaggio nostro, lavoro è quello di dire no, non è sbagliato, è la tua lingua. Quello sbagliare vuol dire proprio una rinuncia alla propria identità, insomma, sì, questo è stata imposta così. Niente, qui queste sono cose che fanno pensare effettivamente, perché un tipo di mentalità di questo genere ha gravato evidentemente per decenni e per più di un secolo anche sulle vite e sulle esistenze di molte persone, di milioni di persone. Milioni di persone. Quindi è stato un qualcosa che naturalmente da una parte probabilmente ha aggravato la questione, ma dall'altra ha mantenuto questa oasi, questa isola di continuità culturale. Certo, certo. Direi. E ha toccato con il dolore, no? Cioè il dolore. Sì, il dolore è quello che... Questo lavoro vuole, cerca di dare dignità al dolore. Al dolore. Questo è che matura importante. Naturalmente un po' come l'oro che viene estratto attraverso il fuoco e non attraverso l'acqua. È un altro percorso, vero? E allora passiamo un altro brano musicale. Sì, allora, parlando appunto di professionalità, di lavoro duro, vi faccio un po' ridere, un po' divertire con una canzone bellissima e allegrissima che si chiama Go spacà tutti i ossi. Il lavoro di questo giovanetto in campagna che lo fanno tanto lavorare, sei a spacà tutti i ossi. Beh, no. Spacato di ossi, quando di ossi spacai. Ho spacato di ossi, sotto disgraziato, son peso di un cane. Ho spacato di ossi, quando di ossi spacai. Ho spacato di ossi, sotto disgraziato, son peso di un cane. Levo su alle cinque, mia mamma mi dice, va a monzer le vacche. Le bestie con fame le da sui piedi, mi sostecate. Vau su per il prataio la erba che in corso la brina, le budelle le ronca, gramento che fame misopoina. spaccato di ossi, quando di ossi spaccai. Lo spaccato di ossi son tutti disgraziati, son peso di un cane. Lo spaccato di ossi, quando di ossi spaccai. Lo spaccato di ossi son tutti disgraziati, son peso di un cane. Quando arrivo in cucina è ancora buon'ora e mi manda a scuola per andare a studiare. La maestra mi dice brutto bauco te tocca imparare. Che vento rabbioso mi ven sul pediocca mi dà un sgrisolò. Trao via tutti i libri, vo casa a lavorare, resto su pomo. Spaccato di ossi, godo di ossi spaccai. Qua spaccato di ossi son tutti disgraziati, son peso di un cane. Qua spaccato di ossi, godo di ossi spaccai. Qua spaccato di ossi son tutti disgraziati, son peso di un cane. Dopo un mezzo di ciappo la sappa e sui scarponi. Con su pari monti rabalto su sassi me vendro i bresponi. Se le moica ston terra mi pare mi dice te sei un teston. Lavora pa presto ti tiri la sapo te tiro un sasson. Spaccato di ossi, godo di ossi spaccai. Qua spaccato di ossi son tutti disgraziati, son peso di un cane. Qua spaccato di ossi, godo di ossi spaccai. Qua spaccato di ossi son tutti disgraziati, son peso di un cane. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche, purtroppo, di questa straordinaria dissertazione. Prego Giorgio. Sì, siamo nella parte finale, quindi abbiamo parlato un po' delle partenze, di questi viaggi, abbiamo parlato degli arrivi difficili, abbiamo parlato anche di questa gente che in realtà poi ce l'ha fatta, no? E che oggigiorno ci sorride e ci accoglie con un'umanità e un'umiltà anche senza pari. A me piace andare in Brasile perché mi sento a casa. L'epoca in cui, di cui ho grande nostalgia, è l'epoca in cui c'era mia nonna quando ero piccolina, che è stata molto importante per me. E quando arrivo in Brasile mi sembra di riabbracciare mia nonna. Sì. È una cosa che non riesco a spiegare con le parole. È un déjà vu sicuramente. E torno lì, appunto, questa anche semplicità che forse da noi sarebbe anche derisa. No? Noi veneti a volte siamo derisi per essere non sofisticati. Sì, forse non sì. Abbiamo certi standard. No? Vero, che, vero. Ecco, il Brasile sicuramente del sud ha gli standard di noi veneti. No? Ecco, questo a me piace molto. Queste tavole imbandite, questa polenta, questo fare ancora questa la pasta in convivialità. Ecco, e questa una parola che secondo me è magica, comunità. Comunità. Mi è capitato e mi capita spesso in Brasile di andare alle feste. Nelle feste ci sono persone che stanno insieme indipendentemente dal colore della pelle, dal conto in banca, dal credo religioso o politico. Si sta insieme perché si ha voglia di confrontarsi. Io penso che anche la differenza, no, ci faccia crescere. E questo che non vedo più, no, nella nostra terra, che in qualche modo si vive in certe caste in qualche modo è diventata, no, una società e non più una comunità, ecco. E quindi si arriva e nonostante insomma anche le difficoltà che sta attraversando anche in questo momento economico il Brasile, sociale, eccetera, politico anche loro, non è semplice la situazione anche brasiliana, però ecco la voglia di stare insieme e la voglia di anche quando arriviamo in Brasile in qualche modo ci mangiano, no? Ci guardano, cercano di carpire quello che non possono nella loro terra perché hanno una proiezione di un'Italia che è anche fantasticata, sì, che è idealizzata e a volte dico forse è meglio anche così. No? Sì. Quando vengono in Italia a me fa sempre un po' paura perché dico troveranno un'architettura meravigliosa, la moda, mangiano bene, ma il resto, l'umanità, sì. Troveranno umanità nel nostro Veneto oggigiorno, no? In cui siamo, facciamo prima chiudere una porta piuttosto che ad aprirla, no? E quindi ecco, forse anche la mancanza, che non hanno ancora questa diffidenza, questa... E in questo, per questo volevo intanto leggervi un paio di poesie che non vorrei poi non avere più il tempo. No, tranquilla. E una che è una poesia molto molto bella di Gianni Rodari, che si chiama Il treno degli emigranti. È un affresco straordinario dell'amore per le nostre radici, dicevamo, l'identità così importante. E dice queste poche ma importanti parole. Non è grossa, non è pesante la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane e un frutto, e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato, nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire, e oltre al mare lui non vuole venire. Lui resta, fedele come un cane, nella terra che non mi dà più pane. Un piccolo campo proprio lassù, ma il treno corre e non lo vedo più. Ecco, dicevamo che tu magari per periodi più lunghi, ma anch'io ho avuto delle mie piccole esperienze di migrazione. Si va all'estero, no? Si parte per tornare. Io penso che in tutti i posti dove noi rimaniamo, anche Gianluca, anche lui ha avuto un'esperienza in Cile, è vero, di un anno. Quando si va in quel posto si lascia un pezzettino del nostro sì, cuore, sì, decisamente. E non torniamo più gli stessi, no? Concordo. E anche se torniamo in quel posto in altre epoche, non sarà più quel momento, no. Perché noi siamo cambiati, non siamo più quella cosa di quell'anno, di quel momento, di quel frangente. E però una parte resta anche nella nostra terra natale, che è quella che poi ci permette anche di essere qualcosa di importante nel mondo. Nel mondo siamo quello che siamo, arriviamo con questa valigia, adesso non più di cartone, con questi aerei, quindi più comodi rispetto a quelle navi a vapore. Però trasmettiamo quello che noi abbiamo imparato, quello che noi abbiamo assorbito anche della nostra comunità e della nostra società. Ecco, in questo senso vi leggo il secondo pensiero, questo è un pensiero mio, che parla di un fiore molto bello che si chiamano le rose, no? E dice questo: tutti attraversarono la piazza delle rose, molti si fermarono per contemplare la bellezza dei fiori, alcuni commentarono la varietà dei colori, altri la perfezione dei petali, delle foglie, la vita che sboccia, ma nessuno si rese conto dell'esistenza delle radici. Fu valorizzato tutto, ma le radici furono dimenticate. È che gli occhi non possono penetrare in ciò che è nascosto. I fiori dipendono dalle radici, umili, nascoste, sotterrate e sepolte, che sono atte a dare fermezza e sicurezza alle piante. Il mondo ha estremo bisogno di gente radici, che hanno il coraggio di rimanere nascoste, al buio come in una selva. Sì, una giungla che dà vita, allegria e speranza. Una giungla che permea la vita, contamina lo spazio e trasforma i nostri cuori. Dobbiamo proprio essere come le radici, solo così potremo vivere in un mondo migliore. Io so che esiste un'altra versione però di questa. Sì. E la possiamo ascoltare? In portoghese? Sì. Ah, mamma mia, con il mio portoghese. Che noi facciamo storie de che altri di solito con la Gesi, e questa è un'occasione particolare. Va bene. As rosas. Todos passaram pela Praça das Rosas. Muitos pararam para contemplar a beleza das flores. Alguns comentaram a variedade das cores. Outros a perfeição das pétalas, as folhas, a vida desabrochando. Mas ninguém se deu conta da existência das raízes. Tudo foi valorizado, mas suas raízes ficaram esquecidas. É que os olhos não conseguem penetrar no que está escondido. Muitas vezes dependem das raízes humildes, escondidas, soterradas, para dar firmeza e segurança às plantas. O mundo precisa das pessoas raízes, que tenham a coragem de ficar escondidas no escuro, mas sendo selva. Sim, daquela selva que dá vida, alegria e esperança. Selva que perpassa a vida, contamina o espaço e transforma os corações. Precisamos ser raízes, só assim viveremos em um mundo melhor. Obrigado. De nada. Bellissima. Ecco, prego. Sì. Ultime considerazioni. Ultime considerazioni. Poi abbiamo l'ultimo brano musicale. Noi continueremo con questo progetto. Spero di ritornare la prossima volta a raccontarvi che avrò fatto un altro viaggio. Siamo stati ormai in queste ultime tre estati. E con tante comunità. E questo non è un lavoro politico, non è un lavoro. È un lavoro fatto con il cuore, no? E speriamo di piantare altri semi in Brasile questa volta. Spero di riportare a casa, no, anche un altro pezzettino di bagaglio che serva anche per darmi forza e per continuare anche con questo progetto, che è un progetto fatto anche di tanti sacrifici, no, e che serva anche a noi italiani, a noi veneti, per capire un po' di più l'importanza di questa identità e che forse se facessimo un passetto indietro a riprendere, a ripercorrere anche proprio tutta la nostra storia, la nostra società, la bellezza che ha anche il nostro popolo nella sua semplicità, nella sua umiltà, forse faremo dei passi, no? più in là, più allungati rispetto a questo proprio anche riempimento di materialità che a volte non ci dà lo spazio per respirare, per conoscere un po' meglio, ecco, questa nostra bellissima cultura. Sì, questo è fondamentale. Io credo che questo tipo di progetto potrebbe essere utile anche ad altre etnie, per diciamo conoscere, per capire, per abbattere delle barriere. Certo. E con queste ultime considerazioni, prima dei saluti, andiamo con l'ultimo brano musicale. Sì, e questa è una canzone simpatica, anche questa si chiama Zigo Zago e parla proprio della società brasiliana, il gioco, anche lo stare insieme all'interno delle feste, dei filò, quindi Zigo Zago. Joanil é lá que ele dorme e sou sua tirar la cuna. Male questa la fortuna que gale dorme a marida. Male questa la fortuna que gale dorme a marida. Zigo, zigo, colo, zigo, zago, salta fora ele mago, colo a pipa em boca, la capela rossa, tutti fa morire. Della passione, della passione. Con lo zigo zigo, con lo zigo zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la capella rossa, tutti fa morire. Della passione, mi sento a morire. Zigo zigo, colo zigo zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la capella rossa, tu ti fai morire. Della passione, della passione. Colo zigo zigo, colo zigo zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la capella rossa, tu ti fai morire. Della passione, me sinto a morire. Ed eccoci di nuovo in studio per i saluti finali. Devo dire che è sempre un'emozione avere ospiti in studio, ma questa volta è stata particolare anche per la particolarità, se vogliamo, del racconto, della narrazione, che è di una struggente malinconia per certi versi, ma anche di una, come posso dire, speranza per il futuro. Non so se gli ospiti concordano con questo. Sì, è la forza delle radici, no? Ecco questo, e questo lavoro non è proprio un muro, è un ponte, quindi i ponti ci fanno sempre andare, percorrere lontano, quindi sicuramente è anche un lavoro, un progetto allegro, bello, che ci porta a cantare, inneggiare alla grandiosità anche del nostro popolo, che sono stati proprio dei grandi, possiamo dire, dei grandi eroi. Grandi, grandi, decisamente. Ecco, quindi viva italiani, viva italiani, al di là del mar. E viva coloro che li fanno rivivere. Certo. Allora a Giorgia e a Gianluca un ringraziamento sentito e a Dio piacendo alla prossima volta. Vi lascio con un pensiero dell'uomo del Tabaro, l'uomo del Tabaro Tiziano Spigariol. Voemo se ben finché siamo in vita, perché niente se par sempre, neanche a memoria. Grazie ancora e a Dio piacendo alla prossima volta. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.